in primo piano. Buona giornata, benvenuti, buona domenica, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Le notizie economiche sono in grande evidenza oggi sui giornali di questa mattina, perché ci aspettiamo che settimana prossima, la settimana che si apre poi domani, ci siano le decisioni, le prime decisioni ufficiali sul DEF, il documento di economia e finanza. Documento da cui si dovrebbe ricavare anche qual è la determinazione, come funzionerà il provvedimento del governo per, ad esempio, abbassare, di dare questi 80 euro famosi in busta paga al mese, tagliando l'IRPEF, abbassando l'IRPEF. In realtà le notizie economiche non sono tutte di buona, come dire, di buon segno, perché il Messaggero, ad esempio, ci informa che il taglio IRAP slitta di un anno. La cosa non riguarda quindi l'IRPEF di cui dicevamo, ma invece la riduzione della pressione fiscale per le imprese. Così in prima pagina, nel titolo più importante, il quotidiano romano, dal 2015 la riduzione delle tasse per le imprese. Il governo poi promette che sulla sanità non ci saranno interventi lineari, insomma niente tagli indiscriminati, si potrebbe tradurre, e poi le dichiarazioni di Morando, che ha annunciato il salario minimo con previsione del carcere per chi viola le regole, per i datori di lavoro che violassero le regole. Naturalmente anche queste però sono ancora dichiarazioni lasciate alla determinazione della politica, non ancora scritte in qualche provvedimento. E poi naturalmente il fuori onda che sta e le posizioni di Forza Italia per quanto riguarda le riforme costituzionali sono occhieggiano, per così dire, nelle prime pagine un po' di tutti i giornali. Ad esempio, restando sul Messaggero, Senato, Berlusconi all'attacco, ma fedele al patto con Renzi. Il Cavaliere, meglio chiudere il Senato, ha detto appunto, se non facciamo una riforma. Lo avete sentito anche nel corso del giornale radio che ha preceduto questa rassegna stampa. E poi il Cavaliere che prepara, un ex Cavaliere bisognerebbe ormai dire, prepara un'offensiva in TV. Questa che si apre domani sarà una settimana anche importante per quanto riguarda appunto la posizione di Berlusconi, perché si attende la decisione sulla misura degli arresti domiciliari, è attesa per giovedì. Ancora dal Messaggero, che abbiamo scelto come primo giornale da segnalarvi in questa domenica, gli extracomunitari guideranno i bus, stop al divieto regio. Si segnala che gli stranieri potranno guidare autobus, tram e metropolitane, non potevano farlo da 83 anni, una norma obsoleta sancita da un regio decreto del 1931. Questa norma stabiliva che solo chi era in possesso della cittadinanza italiana potesse fare questo lavoro. La regola decade da oggi e nessuna azienda di trasporto pubblico potrà più dire no a uno straniero regolare. Così segnala già nella sua prima pagina il Messaggero. Torneremo poi sul Messaggero, andiamo sul Sole 24 Ore per restare in tema di DEF. Tagli, piano da 5 miliardi, così appunto le anticipazioni oggi sul nostro quotidiano per quanto riguarda il documento di economia e finanza. Stretta anche su personale delle authority e SPA locali, nel mirino ci sono i costi di INPS e INAIL, ma Renzi frena sulla sanità, è questo appunto questa precisazione che non ci sarà un taglio lineare e cerca coperture alternative. Però poi c'è un allarme, per se ci aspettiamo delle riduzioni per quanto riguarda il prelievo statale, quindi l'IRPEF o anche l'IRAP, vedremo se poi dal 2014 o dal 2015, come oggi segnala già nella sua prima pagina il Messaggero. Bene, c'è il problema però del prelievo locale, oramai abbiamo imparato a conoscerlo, sappiamo che sia le addizionali dei comuni e delle regioni per l'IRPEF, sia soprattutto il prelievo sulla casa e sui servizi rischiano di portarci ulteriori aumenti nella pressione fiscale. E oggi Marco Mobili e Gianni Trovati sul Sole 24 Ore segnalano che per le imprese la nuova TASI, è la tassa sui servizi indivisibili, potrà portare aumenti fino al 20% del prelievo C'è anche un confronto in prima pagina con due casi, l'esempio di un'impresa manifatturiera e l'esempio di una casa di software, che fanno appunto, mostrano come si può passare da un prelievo dell'anno scorso di 6.000 euro oltre, abbondantemente oltre i 7.000, e il confronto diventa ancora più duro se si va a guardare qual è stato il peso della stessa imposta nel 2011. Stava ad esempio per il caso di impresa manifatturiera a 3.300 euro, quindi ci sarebbe il rischio sostanzialmente di riuscire a raddoppiare il prelievo con questa nuova imposta, questa TASI appunto, la tassa sui servizi indivisibili. Sul Sole 24 Ore appunto tutto questo, e poi i dettagli naturalmente sul DEF, sul documento di economia e finanza, che è atteso questa settimana appunto dal governo. Riferisce Marco Rogari a pagina 3 l'incognita dell'intervento sulla sanità, perché al Ministero dell'Economia è stato valutato un taglio in gran parte lineare fino a 2 miliardi e mezzo nel 2014, però redistribuendo almeno 1 miliardo all'interno del sistema sanitario. Però Palazzo Chigi, spiega Rogari, frena, assicura che non ci saranno tagli lineari, si procederà con interventi mirati. Allora, quali potranno essere a questo punto gli interventi confermati? Torna ad attualità il taglio degli stipendi ai dirigenti pubblici, taglio che in generale dovrebbe colpire le retribuzioni sopra i 70.000 euro annui, operazione da cui ci si attende appunto un risparmio di 2 miliardi e mezzo. Questo per quanto riguarda il DEF, il documento di economia e finanza, nelle anticipazioni del Sole 24 Ore. E sempre dal Sole 24 Ore, vi dicevo della TASI sulle imprese, la notizia è poi in dettaglio con degli esempi nella pagina di norme e tributi di oggi. TASI sulle imprese, possibili aumenti del 20%, ma in questo caso voglio tornare su una notizia che è rimbalzata in qualche modo ieri della mappa della evasione, o per dirla come la chiama l'Agenzia delle Entrate, del tax gap, del differenziale di tassazione italiano. Per circostanziare questa notizia, che trovate un po' su tutti i quotidiani, vi possiamo ricordare che la mappa dell'evasione in Italia, cioè quali sono le zone più o meno a rischio di evasione, discende da un'audizione che il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befer ha tenuto mercoledì. È stata diffusa questa mappa appunto, che suddivide il nostro territorio in 5 categorie secondo un potenziale rischio di evasione, di infedeltà fiscale. Questa mappa è stata poi anticipata sul Sole 24 Ore proprio di giovedì. Ieri sono usciti ulteriori dettagli con la composizione dei comuni, delle province che sono comprese in questa mappa appunto. Allora, qual è poi il senso di tutto ciò? Che è a rischio un contribuente su 5, così ad esempio nel titolo del Sole 24 Ore, l'indagine dell'Agenzia delle Entrate che fotografa il rapporto tra cittadini e amministrazione finanziaria. La mappa premia il nord periferico. Sono invece bocciate, cioè considerate più a rischio, le metropoli e le aree del centro-sud, dove appunto, secondo questa distinzione che ha fatto l'agenzia, si concentrerebbe il maggior rischio di evasione. Tax gap appunto è la parola, è il termine, un altro termine inglese che ci tocca imparare per definire questo rischio di evasione potenziale. In pratica si basa sul gettito che il fisco si attenderebbe da un certo territorio e da quello che poi invece risulta versato alle casse dello Stato. Non necessariamente, vale la pena di precisarlo, può essere tutta evasione, perché possono essere comprese ad esempio situazioni in cui la crisi, lo abbiamo visto, impedisce di versare quanto dovuto al fisco, come è accaduto ad esempio per l'IVA in diverse situazioni, tra l'altro appunto anche con esiti poi sul piano penale. Lo abbiamo raccontato qui a Radio 24 in diverse occasioni, lo abbiamo raccontato anche sul Sole 24 Ore. Questo appunto per quanto riguarda la mappa dell'evasione. E poi naturalmente ancora sul Sole 24 Ore, prima di fermarci qualche minuto e ascoltare le previsioni del tempo, il Vinitaly, perché oggi cominciano anche le trasmissioni di Radio 24 dal Vinitaly, quindi seguiremo questa manifestazione con molto interesse. Il vino è un elemento importantissimo per la nostra economia, anche e soprattutto in chiave di export, e infatti il titolo del servizio del Sole 24 Ore è proprio questo: Vinitaly alla sfida internazionale. Il ministro per le politiche agricole Maurizio Martina ha annunciato che i fondi pubblici destinati al vino ammonteranno a 1 miliardo e 685 milioni, e poi che a Expo 2015 ci sarà un padiglione dedicato proprio al vino con la regia dei Veneti. Questo sul Sole 24 Ore lo riferisce Emanuele Scarci. Noi ci fermiamo qualche istante e ascoltiamo le previsioni del tempo. In primo piano. Bentornati ancora, buona domenica da Mauro Meazza. Stiamo dando un'occhiata ai titoli più importanti dei quotidiani che trovate in edicola questa mattina. Naturalmente le questioni economiche, come vi segnalavo già nella prima parte di questa rassegna stampa, sono ampiamente presenti, perché ci attendiamo che questa settimana ci sia finalmente lo svelamento del DEF, del documento di economia e finanza, dal quale poi dovrebbero derivare l'intervento appunto di riduzione dell'IRPEF, nonché altre decisioni sui tagli alla spesa pubblica. E così La Stampa, che titola "Tagli tocca agli uffici statali", e segnala che ci sarebbe una richiesta di Matteo Renzi, del Presidente del Consiglio Renzi, al Tesoro per inserire nel documento di economia e finanza anche l'abolizione delle camere di commercio. E poi Berlusconi che attacca sul Senato con appunto queste dichiarazioni rilasciate ieri da Berlusconi, secondo le quali appunto per fare una riforma pasticciata allora meglio abolire del tutto il Senato. Il Premier minaccia di cambiare l'Italicum, appunto il patto sulla riforma elettorale. Questo su La Stampa, che poi segnala con una grande foto a centro pagina le elezioni presidenziali in Afghanistan, affluenza record nonostante gli attentati. Ci sono stati, ricorda il quotidiano torinese, 140 attacchi in 24 ore. E nelle pagine interne poi, accanto appunto ai dettagli, alle anticipazioni per quanto riguarda gli interventi sulla parte pubblica, le segnalavamo anche dal Sole 24 Ore poco fa, c'è questa curiosità segnalata da Francesco Grignetti: pazzi per le auto blu, c'è un boom di offerte e prezzi più alti della media. Come sapete, il piano di dismissione delle auto blu in vendita su eBay è uno degli aspetti, certamente dal punto di vista degli importi per la macchina statale non il più importante, ma uno degli aspetti che più hanno colpito nella presentazione delle misure di taglio annunciate dal Presidente del Consiglio nelle scorse settimane. Bene, ci dice Grignetti che l'auto blu piace, da giorni le offerte si rincorrono e se ne registrano 1543, e intanto così i prezzi sono cresciuti mediamente. Sono prezzi più alti di un quarto rispetto a quelli medi per le auto usate. Però appunto, dice Grignetti, puoi mettere il brivido di sedersi alla guida di una macchina dove sono stati scarrozzati i potenti. Quindi per i potenti o ex potenti, insomma, c'è una corsa alle offerte. La macchina attualmente più desiderata è una BMW 525 diesel che ha 193.000 km, quindi diciamo non proprio nuovissima. Era quotata ieri sera, ci avverte La Stampa, 15.500 euro, così la vendita delle auto blu, l'offerta delle auto blu, che è uno dei dettagli appunto che più hanno colpito nel programma di novità fatto da Renzi. Ma allora, Matteo Renzi, "Renzi via sforbicia Italia", è il titolo del Giorno, che presenta proprio nelle pagine 2 e 3 una intervista al Presidente del Consiglio, il quale appunto conferma una serie di anticipazioni. È giunto il momento di Sforbicia Italia, dice ad Andrea Cangini sul Giorno Quotidiano Nazionale. Il primo passo, dice Renzi, sarà la creazione di un elenco di organismi inutili da cancellare subito. Non sappiamo se poi in questo giudizio di organismi inutili il Presidente del Consiglio stia pensando anche, come dice la stampa, alle Camere di Commercio. C'è poi qualche altra dichiarazione in materia più politica. È ipotizzabile che si discuta dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Renzi risponde: il tema è serio, ma abbiamo già messo fin troppa carne al fuoco, quindi secondo me no, è la dichiarazione appunto di Matteo Renzi. E poi ci dice chi è che si sta mettendo di traverso tra lei e le riforme, e la risposta ironica, come un po' nello stile dei Renzi: se vuole l'elenco finiamo domattina. Però, dice, non cerco alibi, nei decenni troppi politici si sono arresi scaricando su altri la responsabilità dei propri fallimenti, io non lo farò. Ancora da questa intervista si ricava appunto sulla Sforbicia Italia: non vorrei si pensasse, questa dichiarazione di Renzi, che abolito il CNEL, le province e il Senato io mi tranquillizzerò, per me quello è solo l'antipasto. Così appunto la determinazione di Matteo Renzi raccontata su il Giorno Quotidiano Nazionale. DEF, ecco il piano Berlusconi-Renzi, scontro sulle riforme, è il titolo anche per Repubblica: caccia nuovi fondi, tagli alla sanità e l'ipotesi salario minimo. Ma naturalmente su Repubblica tiene banco anche questo fuori onda che poi ha caratterizzato un po' tutta la giornata politica. Il fuori onda tra appunto Maria Stella Gelmini e Giovanni Totti, si sono scambiati dei giudizi sullo stato di salute, lo stato d'animo di Berlusconi, appunto nella convinzione di non essere ascoltati, e hanno parlato di un Berlusconi angosciato per il 10 aprile, la decisione appunto sulla sanzione a carico di Berlusconi. E appunto una della stampa di Torino dice: Totti mi ha detto che non gli danno nulla, la parola però che viene riportata non è esattamente questa, neanche gli assistenti sociali gli dicono vada a casa, stia lì. E Gelmini che dice: beh, è un consiglio perfetto questo, porta a Repubblica nel riferire appunto di questo fuori onda che ha poi creato degli imbarazzi appunto tra i due protagonisti. Ovviamente il fuori onda viene inserito da Repubblica nelle pagine 2 e 3, in cui si parla di Forza Italia nel caos con Berlusconi che poi stoppa Renzi e dice facciamo le riforme sì, ma dopo le europee. Restiamo su Repubblica anche per un'altra notizia. Ieri caduto il divieto della presenza delle grandi navi nella laguna di Venezia, e ieri appunto subito c'è stato un incidente. Dopo il via libera del TAR, riferisce Francesco Merlo nelle pagine interne di Repubblica, è stato urtato il corridoio di imbarco. Non è successo nulla di grave, nessuno si è fatto male, ma è chiaro che la circostanza ancora una volta ha preoccupato, è tornata a preoccupare chi si oppone al passaggio di queste meganavi all'interno della laguna di Venezia. Le persone, ricorda Repubblica, ci sono però 5.500 persone che lavorano con le navi, quindi c'è un problema anche di attrattiva della città di Venezia, e il passaggio di queste grandi navi ovviamente è anche un'occasione turistica, un'occasione di lavoro. Cambio completamente argomento nel minuto e mezzo più o meno che mi separa dalle condizioni del traffico, dalle informazioni sulle condizioni del traffico, per segnalarvi un'inchiesta del secolo XIX che poi viene ripresa anche da qualche altro quotidiano, L'esercito dei baby prostituti. La Procura di Genova ha, come si dice in questi casi, scoperchiato un caso di prostituzione minorile con appunto commercianti, artigiani, impiegati che abusavano di minorenni, promettendo appunto, offrendo ricariche cellulari o insomma altro tipo di pagamenti. Ma quello che denuncia il Secolo XIX è appunto che questa è solo la punta dell'iceberg, sono le parole del procuratore capo. Si parla di 5.000 baby prostituti in Italia, 100 sarebbero a Genova, e il boom naturalmente è più facile con l'utilizzo di internet. Marco Menduni firma l'articolo che apre così il giornale genovese. Poi nelle pagine interne anche una inchiesta appunto condotta da Pablo Calzeroni, che ha provato lui stesso a mettersi su internet per cercare questi potenziali clienti, e purtroppo li ha trovati molto facilmente. Se lo faccio poi mi fai una ricarica, un'ora su internet, si dice, è sufficiente per farsi adescare. Questo sul Secolo XIX. Ci fermiamo, ascoltiamo il traffico. In primo piano. E ancora buona domenica da Mauro Meazza. Concludiamo la lettura, le segnalazioni dai quotidiani che trovate in edicola questa mattina. Abbiamo parlato di DEF, di documento appunto di economia e finanza, con le ipotesi che si rincorrono sui vari quotidiani per i tagli. Sembra quasi certo a questo punto un tetto alle retribuzioni dei dirigenti pubblici. Si vedrà che cosa fare, che cosa succederà della sanità. Peraltro appunto abbiamo visto da una intervista sul Giorno Quotidiano Nazionale, il Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio, dice che questo primo intervento di spending review, di riduzione appunto della spesa pubblica, lui lo considera solo un antipasto. L'abolizione del CNEL di Provincia e Senato per lui è solo un primo passo. E secondo ad esempio La Stampa si immagina anche di abolire le camere di commercio. Cambiamo a questo punto un po' gli argomenti su cui abbiamo puntato fin qui. Ad esempio il giornale decide di dare spazio alla settimana decisiva non per il DEF ma invece per Silvio Berlusconi. Tra pochi giorni la sentenza sui domiciliari a Berlusconi, dice il giornale, è il quinto golpe per farlo fuori. E poi le dichiarazioni dello stesso Berlusconi, leader di Forza Italia, riforma del Senato sì ma alle nostre condizioni. E tutto questo sormontato da un titolo diciamo che evita qualsiasi equivoco: la grande bruttezza, l'Italia che bara. C'è un editoriale molto pesante di Sallusti, che dice, Sandro Sallusti, inizia una settimana decisiva per la democrazia italiana. Giovedì il Tribunale di Milano potrebbe togliere l'agibilità fisica, quindi quella politica, a Silvio Berlusconi, rendendo la condanna del caso Mediaset esecutiva. Ancora una volta, scrive Sallusti, l'orologio della magistratura segna l'ora dell'interferenza nella vita politica. A una settimana dall'avvio ufficiale della campagna elettorale, togliere di mezzo l'unico leader in grado di contrastare la sinistra è una porcata. E poi prosegue dicendo anche di peggio appunto di questa di questo intervento, peraltro previsto per la condanna sul caso Mediaset. All'interno poi appunto i 5 colpi di Stato, così lì riferisce il giornale, che hanno disarcionato il Cavaliere dall'operazione Fini nel 2010 alla bufala dello spread per portare Monti al governo, poi la decadenza Alfano e ora la pena da scontare. Su tutto aleggia l'ombra del Colle. Insomma, niente mezzi termini per il trattamento di questa notizia. Un altro degli eventi che potranno caratterizzare la settimana che si apre domani, uno appunto l'abbiamo visto, è il documento di economia e finanza, con le decisioni sulle nostre buste paga e sui conti pubblici, sui conti dello Stato in genere. L'altro la decisione sulla domiciliari al cavaliere o ex cavaliere, meglio, Silvio Berlusconi, che in questo modo sarebbe chiaramente impedito nella guidare la campagna elettorale. Anche su anche l'Unità dà il suo titolo principale a Berlusconi, parla di ricatto spuntato, l'ex cavaliere in confusione minaccia sulla riforma del Senato ma poi frena, e fuori onda di Toti e Gelmini l'abbraccio mortale con Renzi ci distrugge, è una delle dichiarazioni. L'altra dichiarazione era quella appunto dell'angoscia di Berlusconi per il 10 di aprile. Il premier va avanti, se rompono faremo da soli, appunto Renzi che dice ha liquidato la questione dicendo sono vicende interne a Forza Italia, se noi intendiamo andare avanti. Così sull'Unità, che poi dedica invece l'altro suo titolo più importante di prima pagina ancora al DEF, con l'allarme delle regioni per i possibili tagli alla sanità. Per coprire il taglio dell'IRPEF spunta l'ipotesi di una sforbiciata di 4 miliardi e subito c'è stato una presa di posizione del ministro Lorenzin, non si può usare l'accetta, e Fassina parla di una beffa per i cittadini. Così sull'Unità, che in questo modo appunto resta sul DEF. Su invece Libero, tutt'altro titolo di apertura, dai pizzaioli ai gelatai, dagli estetisti ai giardinieri fino ai serramentisti, nel pieno della crisi ci sono quasi 500.000 artigiani che non solo tengono botta ma creano nuovi posti, oltre 24.000 nel 2013. Sono lavori che danno lavoro, deriva appunto da una segnalazione uscita ieri sulla le assunzioni effettuate appunto nell'ambito dell'artigianato. Il governo vuole mettere gli imprenditori in galera, così Francesco De Dominicis sulla prima pagina di Libero riassume le dichiarazioni del viceministro dell'economia Enrico Morando su salario minimo e possibili sanzioni per i datori di lavoro. Questo il titolo principale di Libero. E poi l'editoriale del direttore Maurizio Belpietro, che dice: l'ultimo appello a Forza Italia per non morire renziani. Questo la presa di posizione invece politica da parte di Libero. Abbiamo un paio di minuti ancora prima di salutarci. Allora vi voglio segnalare tre argomenti da tre differenti giornali. L'uno, torniamo sul Messaggero, perché prova a fare un focus, un'indagine, un'inchiesta, come volete chiamarla, sulle spese dell'Europarlamento. Europa, ecco le spese d'oro, rimborsati perfino gli ospiti. Al Parlamento di Strasburgo la vera spending review non è ancora arrivata. Ognuno dei 766 eletti al Parlamento di Strasburgo ha uno stipendio di 6.200 euro netti più 300 euro al giorno. Si va in pensione a 63 anni. Ricaviamo poi da questo lavoro di David Carretta, che trovate sul Messaggero. Lo stesso Carretta poi firma anche un altro articolo in cui ci segnala che ai gruppi del Parlamento vengono dati soldi a pioggia, c'è anche chi li ha usati per pubblicare delle ricette, ricettario di cucina europea in tempo di crisi, un utilizzo appunto dei soldi dati ai gruppi. Ci sono poi i fondi per gli assistenti, una tabella, appunto una ricca grafica nella pagina 9 del Messaggero di oggi, ci segnala come la democrazia appunto del Parlamento europeo costi parecchio. Ancora di più, dice, la democrazia costa quando è transnazionale e da un Parlamento composto da 766 deputati eletti in 28 paesi in cui si parlano 24 lingue ufficiali. Quindi ammonta a 1.700.000.000 il bilancio per il 2014 dell'Europarlamento. Europarlamento per il cui rinnovo, lo ricorda lo stesso Carretta, si voterà il 25 maggio. Tutt'altra inchiesta su Quotidiano Nazionale del Giorno, le mail clonate. Vi sarà probabilmente capitato di ricevere queste mail in cui in italiano un po' stentato qualche vostro amico vi dice sono all'estero, mandami dei soldi. Naturalmente è un tentativo di sottrarre denaro, è una truffa in poche parole. però quello che l'effetto collaterale sgradevole è che da questa truffa può derivare una clonazione della mail, della posta elettronica, oramai assolutamente essenziale per lavorare, ma direi anche per vivere a questo punto per molti di noi. Tutto questo sul Quotidiano Nazionale, il giorno in cui appunto anche una testimonianza di una giornalista che si è trovata in questa situazione e ha fatto ricorso a un hacker, a un pirata informatico che insomma è riuscito in qualche modo a salvare la posta elettronica della giornalista pizzicata da questi atti di pirateria. E infine sul Corriere della Sera il caso del certificato antipedofilia, probabilmente i lettori del Sole 24 Ore già ricordano, anche sul sito ilsole24ore.com ne abbiamo parlato, c'è questa richiesta che deriva dall'attuazione della direttiva europea di un certificato per chi lavora con i minori. Sono state date delle indicazioni in questi giorni da parte del Ministero, si precisa ad esempio sul Corriere della Sera, non serve per le babysitter né per i contratti in corso, una serie di domande e risposte chiariscono l'ambito di applicazione. E con questo è davvero tutto, grazie a Carmelo Lauricella questa mattina in regia e una buona domenica a tutti da Mauro Meazza.